24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Guido Martinetti, 40 anni, torinese scapolo, cofondatore della gelateria Grom, un successo internazionale, ama la terra, l'agricoltura e il suo lavoro, sceglie personalmente i gusti dei gelati che hanno conquistato il mondo. La sua storia è una storia simbolo della nuova imprenditoria, un'idea vincente, un piccolo investimento, una banca che ci crede, tanto talento, un po' di fortuna. È stato cercato da Berlusconi, dicono, e forse dopo aver portato il suo gelato a Palazzo Chigi, anche da Renzi, l'ha cercata dopo? Renzi l'ha cercato? Sì, no, non ci sono mai parlato. Ecco, ma l'hanno pagato il gelato o no? Sì, l'hanno pagato 80 euro tra 80... l'altro, giusto per la cronaca. Ah, erano 4 kg di gelato, non è che 80 fosse. Euro. Il servizio l'abbiamo messo chi, noi. Chi l'ha pagato? L'ufficio organizzativo della segreteria di Renzi. Senta, però Renzi che mangia un gelato Grom è un bel testimonial nel mondo, no? Sì, ma non per tutti. Cioè, io certo. Diciamo, la maggior parte dei nostri negozi in Italia no. Bravo, esatto. La maggior parte dei nostri negozi sono in Italia e non tutti proprio la pensano così, diciamo così. E Renzi, a lei piace o no? Sì, molto. Perché? Perché è un entusiasta. Però niente Leopolda lei. No, non è il momento in cui così, è il caso di espormi politicamente. Però Renzi è un entusiasta, io adoro le persone entusiaste perché comunque in qualche modo ti fanno vedere e poi ti fanno vedere la vita così anche con un po' di solarità che non guasta. Ah, certo. Senta, dottor Martinetti, la vostra è un'avventura bellissima, sole ce n'è tanto. Mi dice, a chi è venuta l'idea? A lei o al suo socio? È venuta Carlin Petrini, che è il presidente di Slow Food, sì. Che scriveva che non c'erano quasi più gelati come una volta. Io ho letto l'articolo, ne ho parlato con Fede, il mio socio, Federico, ed è lì iniziato, lì ci è cambiata la vita, quindi dalle sue parole. Senta, avete investito 60.000 euro, mi sembra di aver letto, quasi come una start-up della Silicon Valley. Si sente a modo suo uno della Silicon Valley? No. No, perché? Ma primo perché Silicon col food, insomma col cibo, non è che mi ispira da bestia. Vabbè, ok. E questa è una cosa. E poi sono vecchio come il cucù, si dice dalle mie parti a Torino. Sì, non pensi e io. Francamente a 40 anni, sa com'è. Le piacerebbe avere un negozio lì, la Silicon Valley che lo fa diventare giovane? Beh, apriremo a marzo Hollywood, che non è proprio Silicon Valley, ma abbastanza vicino. Beh, però non è tanto distante. Sono orgoglioso. No, non ci vorrei stare, sinceramente no. È un'agricoltura che non mi piace, quella della California, generalizzando, poi ci sono sempre le chicche. Certo. Lei, fra voi due, è quello che si occupa di materia prima, della materia prima. Quando ha capito che il gelato era la sua vita? L'ho capito quando una signora ha preso un cono un giorno da noi, sarà stato il terzo giorno dell'apertura, e era molto piccolo, perché non eravamo bravi a farli, no? Quindi per incapacità l'abbiamo fatto piccolo. Questa signora è uscita e guarda, era incavolata nera, è uscita quasi urlando dal fastidio di aver pagato €1,70, qualcosa. Stava guardando queste scarpe e aveva sta faccia goduta, no? Quasi come se stesse facendo del sesso straordinario. E quando ha finito il cono è rientrata dentro, ha detto, era piccola, ma ne voglio un altro. Mi sono sentito che stavo facendo qualcosa, bene una cosa, e allora forse qualcosa. Valeva la pena di continuare. Ma se lei dovesse dire che cosa ha il suo gelato più degli altri, perché è tornata la signora? Guardi, ha molta serietà, una passione pazzesca alle spalle e la mia faccia, insieme a quella di Federico, che ha un valore infinito per noi. Direi forse qualcosa che non ha. Non ha la chimica, che è molto diffusa nel mondo del cibo, e non è facile, il gelato è un prodotto complicato dal punto adesso di vista proprio della sua fisica. Adesso ne parliamo, però ho letto che lei è contro gli OGM, qui a Mixer la senatrice Cattaneo, che è una grande ricercatrice di fama mondiale, ha detto che essere contro gli OGM vuol dire pensare a un'agricoltura solo per ricchi. Lei cosa risponde? Rispondo prima di tutto che il giornalista, cioè l'articolo che ha scritto l'articolo che ha letto, ha scritto una stupidaggine perché io non sono contro l'OGM. Non ho una cultura sufficientemente profonda. Teniamo presente comunque sia che tutti noi, cioè tutti gli esseri viventi di questo momento sono OGM, solo che non, sono organismi che non sono stati modificati dall'uomo ma dalla natura, 4 miliardi di storia, che non è poco, e la natura ci ha pensato a fare le cose per bene. E tendenzialmente, se ci riferiamo diciamo alle grandi coltivazioni cerealicole, che sono poi il mondo degli OGM, la senatrice ha perfettamente ragione. Senta, ma le sue materie prime lei come le sceglie? cercando di gestire personalmente l'agricoltura, coltivandole. Abbiamo un'azienda agricola nell'Astigiano di 20 ettari, oppure passando il mio tempo di fianco ai miei fornitori, che sia un venezuelano che fa il cacao o uno del Madagascar che fa un fiore fantastico che si chiama vaniglia, un'orchidea, e che poi viene essiccata e utilizzata nel gelato. Ed è un'opportunità di vita eccezionale stare di fianco a queste persone. Certo. Lei ha anche detto: il segreto del nostro successo è che abbiamo avuto fortuna. Quale fortuna? Di incontrare quella signora che ha detto buono? No, però un incontro di sicuro, incontrare Federico. Io sono, credo, una persona migliore, nel senso, almeno dal punto di vista professionale, più gratificata, soddisfatta e anche abbastanza serena, perché faccio qualcosa che mi piace, grazie a Federico. Perché? Perché Federico mi completa. Federico è un uomo eccezionale, solare. Quindi non è vero che avete litigato qualche volta? È una stupida. Non avete mai litigato? No, litigio nella stessa parola, mai. No, mai. Discutiamo soprattutto sulle strategie, ma... Ma sulle strategie avete una differenza di opinioni su che fare? Qualche volta sì, certo. Qual è la volta più grossa che avete avuto? Inserire frappè nella gelateria. Guarda, ma glielo giuro, per me è un trauma pazzesco. Federico diceva: dobbiamo assolutamente aggiungere un'altra referenza per avere più offerte, eccetera. Per me frappè, io lo considero un prodotto minore. Un po' cheap, esatto, minore, bravissimo. E per me sta... Però c'aveva ragione lui. Infatti dicono quello. E la cosa bella è che quando uno dei due, cioè quando a un certo punto prendiamo una decisione e scegliamo una strada, se è sbagliata, l'altro non si lamenta mai. Questo è fondamentale. Fantastico. Ma lei adesso è un uomo ricco? Credo di essere un uomo abbastanza libero, cioè, credo di potermi permettere ricco. esattamente è importante per essere libero. La libertà è fondamentale. No, essere ricco per essere libero, sì, ritengo sia importante. Qual è il rischio più grosso che avete preso? Quando all'inizio abbiamo deciso di fare il bancone a pozzetti al posto che la vetrina. Tutti dicevano che eravamo completamente scemi perché non era il futuro del gelato, ma il rischio non è dal punto di vista finanziario, il rischio è dal punto di vista di un ragazzo di 26 anni che entra in un mercato, non lo conosce e fa ciò che gli altri non fanno. Certo. Questo è il senso del rischio. Senta, ma nelle banche italiane ci sono più banchieri o più bancari, secondo lei, che ha avuto a che fare? Oggi c'è un eccesso di personale importante nelle banche italiane rischiano o no sulle buone idee? Con voi l'hanno fatto, ma in generale? No, le banche non rischiano mai sulle buone idee, rischiano sempre su delle sicurezze finanziarie, però attenzione che le banche sono partecipate da azionisti privati. E questo vuol dire che hanno un ruolo sociale, ma in realtà non rispondono alla società, rispondono agli azionisti, che vanno letti in quest'ottica. Se non è sbagliato, se è una percezione sbagliata del sistema finanziario. Senta, leggo che il suo socio però funziona perché siete opposti. In che cosa siete opposti? Nelle passioni. Cioè? Cioè Federico è un uomo prima di tutto di numeri, è un uomo molto razionale e costante. Io sono invece una persona, direi, più di parole in un certo senso, sono molto affascinato anche dalla letteratura e così via, e ci integriamo perfettamente, ma abbiamo le stesse fondamenta, che è l'educazione dei genitori. Ma c'è qualcosa in lui che non sopporta proprio? Di sicuro? Che quando, sì, certo, come no, assolutamente. No, una cosa che non sopporta è quando vede uno sconto che non capisce più niente e compra una roba brutta anche solo perché costa meno. Tra l'altro una stupidaggine clamorosa, ma non la sopporta, lo trovo anche quello un po', come frappè, lo trovo un po' un sotto di... esatto. Prima serata di Rai 1, va bene. Ma essere torinese è stato un vantaggio o irrilevante per lei? No, è stato fondamentale. Perché? Perché Torino è intrisa, grazie alla vicinanza con Braslo Food, eccetera, e alla sua storia di cultura del cibo. Certo. E poi, se posso permettermi, c'è un altro aspetto che io ammiro molto, che è un'eleganza non manifesta. Certo, understatement. Esattamente. Senta, e per lei cos'è Torino, per lei personalmente? È un luogo insostituibile, è il Po dove vado a correre, quindi genero lì il mio benessere, intendo dire. Cioè è quasi un luogo dell'anima, diciamo. Senza il quasi, totalmente. Io viaggio molto e non ho ancora trovato una città che apprezzo di più di Torino. Ma crede in Dio? No, purtroppo no. Lei dice che Torino è splendida, però ha bisogno di un simbolo per essere valorizzata. La Fiat non c'è più, allora sto simbolo? Faccio riferimento a un simbolo estetico, cioè noi rappresentiamo sempre, e la Fiat non è mai stato un simbolo estetico, però, insomma, purtroppo, anzi il contrario, ahimè. In ogni caso, il simbolo di Torino è la mole, che non è un simbolo emotivo. Il simbolo giusto per Torino è Leonardo, il suo volto, e va esposto assolutamente in pubblico 24 ore su 24, open. Vuol dire avere 5-10 milioni di turisti all'anno. Lei ha presente Leonardo con la barba, certo, disegnato da se stesso? Non era male come disegnatore. Non era male, è una bella idea, sì. Senta, si è parlato di lei come di un candidato di Berlusconi. È stato contattato, è vero, non è vero, una letteratura c'è quasi... Non è vero, credo abbia fatto dei sondaggi, questo sì. Ma non sono stato mai contattato né da lui né dai suoi collaboratori. Quindi i sondaggi sono andati male. Può darsi. Ha fatto i sondaggi. Alfano si è lamentato, ha detto adesso parla di sti gelatai, eccetera, e forse sono andati male. Forse Berlusconi non ha trovato disponibilità. Era meglio uno senza quid, va bene. Senta, esatto. Oggi l'Europa sembra però più un incubo che un sogno per l'Italia. Lo è anche per Grom oppure no? Abbastanza. Perché? Perché in questo momento più che un'opportunità di mercato è un sistema di regole vetuste, devo dire, mi rendo partecipe delle parole del Papa di qualche giorno fa. E si fa fatica a lavorare in Europa e c'è un welfare che non è stato sostenuto in passato dalla finanza e oggi i figli si ritrovano a sostenere il welfare del padre e non si possono più indebitare, però hanno fatto i padri. Ha citato il Papa, dice che non crede, ma sto Papa le piace da morire, come tu, a chi non piace il Papa, cioè, è una roba fantastica, cioè, è il più bel caso di marketing della storia dell'umanità, ma lo dico nell'accezione positiva. C'è un bel prodotto da vendere. Anche sì, esatto. Senta, voi, costa poco, tra l'altro. Ma l'idea di realizzare un nuovo gusto per il gelato viene a lei per istinto, così? Sì. Sì? Sì. Io... E i gusti del gelato per sceglierli sono di più gli uomini o le donne che possono suggerire? Le donne perché? Le donne sono più fine, sono più sensibili. E non vorrei dare spazio ai doppi sensi, ma sanno usare la lingua molto meglio, cioè sono più sensibili al gusto, che è fatto da, prima di tutto, dal naso, quindi dall'olfatto e da ciò che percepiamo grazie al naso, e poi dalla lingua. Senta, lei... è un talento, cioè è una cosa genetica, istintiva. E lei... durante il periodo mestruale, mi permetto di dire, sono ancora più sensibile. Quindi il massimo della degustazione è una donna durante un periodo in cui... E quindi le degustatrici di Grom sono tutte donne? Noi abbiamo il 70% di collaboratrici che sono donne. Il mio referente assoluto in degustazione, e io non amo fare indagini di mercato, è una donna, Simona. E le donne poi in generale sono un essere superiore, ecco, questo è tassativo anche nella degustazione. Lei che sceglie continuamente collaboratori, anzi mi pare di capire collaboratrici, come le sceglie? Distinto? No? Sì, sostanzialmente senza società di consulenza. No, quando c'è una prima ricerca che bisogna filtrare quelle 5-6 candidate finali, dopodiché assolutamente, insieme a Fede naturalmente. Senta, ma è vero che lavorate solo quando c'è il sole? Sicuramente vendiamo più gelato quando c'è sole, questo non c'è dubbio. Quest'anno non è che sono tanto contento, no, visto va male. L'andazzo della situazione. Ma si vende tanto gelato perfino in Russia. Senta, ma del supermercato a casa davanti alla televisione è un'altra attitudine al consumo del gelato. Senta, ma è vero che avete un contratto di lavoro legato alle condizioni meteo? No, legato è un verbo sbagliato. Ma è un, quello giusto lo dica lei. È un contratto che elastico. Quindi un aggettivo in questo caso che ci consente molto di moda però che ci consente, previo naturalmente la sottoscrizione del collaboratore al contratto, di gestire le sue ore di lavoro in modo più elastico. Vabbè, ha detto meglio quello che io ho detto, un po' sintetico, va bene. Sindacati contenti? Accettano? Grande rapporto con il sindacato. No, il contratto è stato fatto con loro, mica da soli. Senta, tecnicamente, per essere sempre voi col vostro prodotto nel mondo, come fate? Tecnicamente, rapidamente. Noi separiamo la produzione del gelato, come accade in ogni caso, anche a casa, in due fasi: la miscelazione degli ingredienti e poi la mantecazione. Noi spediamo ogni singola miscela da non toccare assolutamente in ogni negozio Grom del mondo e li aggiungiamo solo i pezzi in negozio e mantechiamo, tipo la stracciatella, parte fior di latte, mettiamo la granella di cioccolato e mantechiamo. Così abbiamo gelato fresco fatto in ogni luogo del mondo, sempre uguale a se stesso. Per lei cos'è il gelato? Oggi è una grande passione agricola. Ma ne mangia tanto? È una passione agricola. Lei ne mangia tanto il gelato? Io ne mangio troppo. Troppo? Vede, però magro. Vado a correre sul Poggio. Ok. E qual è il gusto che preferisce? La crema di Grom. Sì. Sono molto orgoglioso. Sì. Che tra l'altro in realtà è un'invenzione di Federico. Ma qual è il mercato che vorrebbe conquistare di sicuro? Guardi, è una risposta banale, sì. La Cina, ah, per due certo, motivi. Uno, sono i numeri evidentemente, ma due, perché credo che ci sia spazio per essere orgogliosi di essere italiani in Cina. Non ci siete. Non ancora, no. Però. Senta, ma mi dice l'ultimo libro che ha letto che le è piaciuto? La biografia di Steve Jobs. È l'ultimo film che ha visto che le è piaciuto? La vita bella. Un giorno l'avvocato Agnelli, in un faccia a faccia, mi ha detto che la classe dirigente di questo paese è peggio del paese. Lei è d'accordo? No. No, meglio la classe dirigente? No, esattamente uguali. Lei ha detto, se mai un giorno dovessi occuparmi di politica lo farei solo se non avessi una famiglia. Perché? Perché sono un uomo che per fare bene le cose ha bisogno di pensarci 24 ore al giorno. È un limite anche, se vogliamo. No, ma è una passione, quindi, e quindi totale. Vorrei e fare quindi, anche bene alla famiglia se ce l'avessi. Però famiglia e politica quindi incompatibili, diciamo. Per me, per me no. Ma anche lavoro e per famiglia. Me nel senso non è la mia sì. opinione, per no, me no, fisicamente. Per lei, sì, ma quindi anche lavoro e famiglia sono incompatibili. Fatto oggi? Con... Sì, oggi sì. Per come è fatto lei? Oggi sì. Oggi ma sì. E quindi l'amore quanto è importante? Però mi scusi, nel lavoro io rispondo a me stesso e a Federico. Nella politica rispondo alla certo, società, sono due cose molto diverse. Quindi sì, mi posso prendere più spazio nel lavoro cioè, per poterli dare alla famiglia. Sta dicendo dire. Che insomma sta lì, ci pensa, 40 anni siamo bravo, ormai, va bene, ormai stiamo arrivando. Esatto, ma l'amore piano. È stato importante nella sua vita o no? L'amore è stato troppo rado in un certo senso, oh. Anche troppo immaturo, oh. Ma è un sogno, perdono la banalità, no, ma è davvero un ma sogno. Ma lei in una donna cosa cerca prevalentemente? Cerco l'eleganza e le palle, che sembrano un ossimoro, diciamo così, perché va di moda anche quello, ma sì, io voglio persone determinate al mio fianco. Senta. A chi dice che il declino dell'Italia è testimoniato dal passaggio da Olivetti a Martinetti come imprenditore simbolo del futuro, cosa risponde? C'ha ragione, è una bella rima e che per adesso è così, però un domani spero di smentirlo, cioè in qualche anno, chi lo sa. Vabbè, c'è tempo. Senta, ma il chilometro zero è una conquista o una moda? Il chilometro zero è una stupidaggine che vale solo per le orticole. Per tutti gli altri prodotti la qualità non è chilometro zero, il motivo per cui il Brunello e Montalcino fanno Montalcino e lo fanno in Perù. Lei ha avuto un incidente gravissimo, ho letto, e ha detto che le ha cambiato la vita. In che senso le ha cambiato? Mi sembra che si è ripreso, quindi in che senso, mentalmente? Cosa l'ha fatto riflettere sul senso della vita? La cosa che mi ha fatto più riflettere è il modo in cui la figlia della persona che è mancata a causa mia mi ha perdonato. Quindi il senso di accettare i limiti altrui e il senso del perdono. È stata una lezione incredibile. Molto importante. Senta, le faccio un'ultima domanda. Le gelaterie però si chiamano Grom, non Martinetti. Dopo tutto questo successo un po' di fastidio ce l'ha. Neanche un po'. Sono orgoglioso. Ma una figata pazzesca. Tanto lo sanno tutti che ci sono anch'io lì in mezzo. No? Per cui che frustrazione genera. Ma chissà nel tempo. Pazienza, guarda, sto abbastanza bene. Poi voglio stare con mia moglie nel tempo. Quella lì che c'è da trovare. Elegante con le palle. Senta, un'ultimissima domanda. Ma qual è il suo sogno nel cassetto? Essere un bravo papà. Accidenti. Complimenti. Mix 24. Allora Mario, che titolo fai per l'intervista a Martinetti? Il semifreddo. Il semifreddo. Tu Pietrangelo? Eppur si squaglia. E si rimangia. Musica. Cercherò di resisterti ancora per poco, e un attimo in fiamme impazzirò. E ti sembra possibile che sia solo un gioco? Tu toccami le mani, capirai perché è tutto più semplice. Se poi anche tu. Andava tutto bene in metropolitana stamattina. E stamattina è successa una cosa stranissima, perché tanti estranei, molto strani animali vestiti si sono impossessati dei posti a sedere, dei corrimano, avendo cura che in ogni vagone fosse rappresentata una diversa epoca. Non c'era neppure un ordine cronologico lineare, perché per esempio c'erano dei compassati levrieri in tuba e ghette che preparavano l'arrivo a rinoceronti in peplum, e quindi c'erano giraffe in tutù che si avvinghiavano a castori vestiti di tutto punto con le camicie di batista e i cappelli piumati, sembravano scappati da un libro di cappa e spada o da un ballo in maschera, con i serpenti che per esempio avevano i sonagli mariachi. Invece ho capito che era l'incantesimo del conduttore del convoglio, perché era salita a bordo una fattucchiera e lui, innamorato per stupirla, aveva trasformato l'intero treno in un numero di illusione per un circo, o forse, chissà, forse soltanto per costruire nella loro illusione un addio, un oblio che fosse dimenticanza. No, lo voglio anch'io. Lo vuoi anche tu? Quello che prende lui la mattina. Sì, è interessante, ha degli effetti meravigliosi. Pazzeschi. È semplice, rinuncia ai taxi e prendi la metropolitana. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Le bolle di Mario. Roma non fa la stupida stasera. Aia. Cari amici, allora, vicini e lontani, quando è che questi cominceranno a raccontarci la verità? E cioè che c'è il grande intreccio. Allora, io voglio fare opera di diffusione, di chiarezza. Allora, Roma Capitale ha 19 società partecipate, 2 aziende speciali, 2 istituzioni, svariate fondazioni, 30.000 dipendenti, 7 miliardi di euro di fatturato. Roma Capitale, provincia di Roma e regione Lazio formano un reticolo di rapporti, signore e signori, inestricabile. Acea ha 40 società partecipate. Sviluppo Lazio dal 1 novembre ha incorporato anche la Fila SPA e oggi è una sostanzialmente una portaerei finanziaria con dentro di tutto. Società sane, società decotte, società in liquidazione. Poi Roma Capitale controlla Acea, AM e ATAC, società delle quali si diramano altre quote di imprese e istituzioni varie, dal parco tecnologico ambientale al polo tecnologico industriale romano, passando per le assicurazioni di Roma SPA, l'agenzia promozionale turistica del Lazio, il centro agroalimentare, Alta Roma, quote della centrale del latte. Insomma, potrei continuare all'infinito. È un suc di cose da vendere. Si passa dai formaggi ai contratti di assicurazione, dall'acqua alle sfilate autunno-inverno. Allora, o vendono tutto questo, che non ha niente a che fare con l'oggetto del comune, gran parte di questa roba non ha niente a che fare con l'amministrazione, oppure ci saranno sempre topi che andranno a smangiucchiare il formaggio. E funziona così. Se tu hai un'impresa, una holding che fa 7 miliardi di fatturato, ripeto, 7 miliardi, sì, cosa vuoi che succeda prima o poi? Certo. E quindi o si vende tutto o oppure, sono solo oppure parole. Parole, parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole. Non so dov'è la questa canzonissima, non ne ho idea, però è molto divertente. Anche perché questa è, secondo me, la cosa grossa che è successa ieri in realtà all'Eurogruppo. Il ministro delle finanze francese, Michel Sapin, ha detto ai tedeschi di moderare il linguaggio, cioè di non criticare troppo la Francia, perché, caro Buttafuoco, altrimenti vince l'ultradestra di Marine Le Pen. Quindi noi in Europa siamo arrivati al punto che, insomma, il clima è per favore non mi offendere. E non è un bel clima. Non so perché ci sia arrivati, anzi un po' lo so, lo abbiamo anche raccontato qui, ma mi sa che ormai è un po' tardi e i buoi sono già scappati. Che succede? No, niente, ascoltiamo la Tardelli di oggi. Questa generazione di giovani mi fa orrore. Non hanno nessuna vocazione civile. Io da ragazza a lettere occupata grondavo vocazione civile. Io mi sporco le mani, io sperimento, provo. Io non passo la vita a fare la snob. Io faccio i salti mortali per essere madre e donna, ma alla fine della giornata sento che sono stata utile. Stefa, l'hai voluto tu. Ti lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di popper. I due figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter. Insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? È dedicato alle donne che si rendono utili più in pubblico che in privato, che hanno una reputazione da difendere, che lavorano in TV ma leggono solo i libri. È capitata una cosa, e quando succedono queste cose, certe volte si grida allo scandalo e certe volte no. Salvatore Buzzi, che pare usasse le cooperative come sportelli del bancomat, ci teneva ai rapporti con il PD. Tanto. Tanto che ha generosamente sponsorizzato lo spettacolo denuncia di Serena Dandini, Ferite a morte. Uno spettacolo che ha avuto molto successo e hanno dato il loro contributo con Cita De Gregorio, Susanna Camusso, per citarne solo alcune. Però è stato finanziato da Buzzi, quello che pare speculi su donne sole, immigrati, rom. Allora mi torna in mente una frase che ho sentito spesso pronunciare. Come facevano a non sapere? Che anche qui a Roma il vero problema era il traffico. La pezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. È il traffico, troppe macchine. Traffico, il problema traffico. Di Roma, traffico, il problema di Roma, sentiamo il problema del Salamino di oggi. Sono stati il secchio e la corda ieri il vescovo di Roma e il sindaco della suddetta, cioè Papa Bergoglio e Ignazio Marino, ieri si sono abbracciati sotto lo sguardo socorrevole dell'Immacolata. Il Santo Padre ha voluto esprimere solidarietà al primo cittadino dell'Urbe e siccome qui non si dorme, siamo in grado di riferire il contenuto della conversazione. Retroscena. Lì nel frattempo che si abbracciavano, Bergoglio infatti non si è limitato a fare pat pat sulla spalla a Marino, ma accendendo i motori. Lo riconoscete questo rombo? È la famosa panda della Magliana. Allora, lui, la sua proverbiale panda rossa, ha detto la può parcheggiare tranquillamente in Vaticano e può disporre quando vuole delle guardie svizzere per metterle al posto dei gladiatori che hanno sempre... li abbiamo sentiti. Sì. Do Caio Gregorio er guardiano del pretorio. Non per fare il ficcanasso, ma i miei tempi, quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo. Con l'allegro risultato di sentirsi autorizzato ad aver di tutti i vivi i vantaggi relativi. Una villa sui parioli, la piscina con tre moli per tenerci lì attraccata la triremi cabinata, bighe a grosse cilindrate, i sesterzi a gran palate, stravaganze tutte matte tipo il bagno dentro il latte come fe diva Poppea. E la gran prosopopea di pretendere che la gente a vederli solamente tesse in smanie e convulsioni. Con la triremica abbinata non ci sono problemi di parcheggio. Detto ciò, c'è stato il grande perdono. Il perdono, infine, per i due assessori del PD. Il perdono per il presidente del Consiglio Comunale, espressione del PD. Ma il non perdono tutti di destra. No. Questi purtroppo erano dalla parte giusta. Oltretutto, un 1.600.000 euro alla cooperativa di Buzzi. Perdono, vedremo. Perdono. Rifarà la giunta, Marino, sì, se la rifarà. Oggi si capirà se si scioglie proprio sulla giunta, Giovanni. Sì, certo. Il Papa gli dà Don Ciotti, Patriciello, tutti nella giunta di Marino, perché sarà una giunta troppo very well. Troppo very well. fosse un balsamato. Qual era la canzone di Minali prima? Parole. Giuseppina da Modena ci chiede parole. Senti, ma Brucio di te. No, la prima era Brucio di te. Brucio. Quella di Mina? Quella di Mina, quella che abbiamo Mina fatto prima. Partire come caso. Allora era Brucio di te. Brucio. Possiamo alzarci o dobbiamo stare sempre sui ceci? No, dobbiamo stare sui ceci. Siamo in penitenza. Il canzoniere. Affrettati a incontrare tuo fratello maggiore, quello dinanzi al quale io mi sono inginocchiato. Dimitri? Sì, lui va, affrettati. Forse farai in tempo a prevenire qualche cosa di orribile, un gran dolore che lo sovrasta. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Un aiutino non glielo vuoi dare, Pietrangelo? Ah, questo è facilissimo. Facilissimo, Ha pure detto un nome degli altri. Vediamo in regia, ripeto il numero: 800 24 00 24, numero verde per chi mai lo indovinasse, o l'SMS 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Mario, una bolla ancora. Dai. Essenza, benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Questo è un grandissimo pezzo, Rino Gaetano. Sì, grandissimo. Spendi, spandi e grande Rino Gaetano. Allora, per parlare di petrolio, ovviamente, certo, abbiamo introdotto la gasolina, no? Allora, bisogna seguire bene le tracce di quel che sta accadendo nel cartello dei paesi produttori dell'OPEC, perché dopo l'Arabia Saudita, anche l'Iraq, che è il secondo produttore del cartello, vorrei ricordarlo, non è solo un posto dove si purtroppo c'è una guerra che non finisce, e ha preso il prezzo, insomma, del suo Basra Light Crude e lo ha portato al minimo degli ultimi 11 anni. Dunque è un segnale chiaro: il cartello dell'OPEC cerca di mantenere, abbassa i prezzi e cerca di mantenere la sua quota di mercato. Questo ha degli effetti enormi. Le proiezioni degli analisti dicono che il petrolio resterà almeno fino a tutta la metà del 2015 a $65 al barile, significa che è al minimo degli ultimi 5 anni, forse anche meno, altri dicono che scenderà ancora. Gli effetti sono chiari, sono effetti deflattivi. È vero che potrebbero essere più competitive le aziende italiane, perché potrebbero avere costi di energia inferiori, certo, più bassi, e quindi però secondo me così in una situazione di deflazione la spirale tale, è sempre più forte e secondo me è molto molto pericoloso per tutta l'economia europea. Però insomma, vedremo. Come si dice, fare l'economia è una scienza che spiega quello che è già accaduto in realtà, non quello che accadrà. Le previsioni non le fa nessuno. No. Oscar, abbiamo Oscar da Padova. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Allora, ha indovinato il nostro canzoniere? I Fratelli Karamazov. Ah, giusto. Bravissimo, bravissimo. Feltrinelli per lei. Senta, ma a Padova come va? Ah, Padova va bene, io sono un pensionato e vi ascolto molto spesso, e stamattina così ho acceso la radio al volo in macchina e ho sentito che recitavano i Fratelli Karamazov, allora mi sono affrettato. E cosa faceva prima? Prima di andare in pensione cosa faceva? Il suo lavoro? Ah, facevo il dirigente industriale. Ah, bene. Va bene, allora ci ascolti, continui a ascoltarci, la ringraziamo molto. Senz'altro. Grazie. Abbiamo un altro salamino. Scannagatti, altro che Barenboim, una prima non memorabile alla Scala di Milano, così finalmente titola, ed è un titolo di verità, il Corriere della Sera, ad accompagnare quello straordinario 1-2 che tra ieri e oggi Paolo Isotta ha assestato in faccia al conformismo italico, che invece è tutto un celebrare, un dir bene, bravo bis al Fidelio di Beethoven diretto da Barenboim, come se fosse stato eseguito la prima volta, poi come se non ci fossero già state le edizioni di Bohm, di Bernstein, di Riccardo Muti. Ma sperticati sono stati gli applausi, mentre invece qui si sottoscrive ogni singola parola di Paolo Isotta, perché questo Barenboim, a differenza di Scannagatti, che ritiene di saperla lunga, è ancora una volta la mezza cultura e peggio della completa ignoranza. Mentre invece Natalia Aspesi su Repubblica parla di un clamore amoroso, e quindi accettare in scena asse da stiro, manici di scopa e il mocio, e quindi ancora una volta a lei dedichiamo lo straordinario mocio. A cosa pensi? Non trovo un mocio. Qual è il tuo impegno? Devo lavare a terra. Ed il tuo tempo? Ma che ci vorrà un'oretta? Che risultati hai? Non trovo un mocio nessuno. Che risultati hai? Deve essere niente. Rido di me. Se ride, ride. Oh, non so chi sei. Ora tu fazzo. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Naturalmente i fratelli Karamazov l'avevano indovinato in tanti che ci hanno scritto l'SMS. Questa volta abbiamo privilegiato la telefonata. Gianfranco Rocchi, tanti altri che avevano indovinato. Oggi, l'8 dicembre del 1978, è l'anniversario della morte di Golda Meir. Nel mio cuore non ho dubbi, saremo noi a trionfare, ma la guerra non è ancora finita. I nostri figli e le nostre figlie ancora lottano sul fronte settentrionale e su quello meridionale. I nostri soldati sono ancora lì a combattere. Naturalmente l'8 dicembre era ieri, ovviamente. Aveva ragione Golda Meir, l'avete sentita, Israele vincerà la guerra del Kippur, ma per lei, per Golda, personalità forte, prima donna a guidare Israele, quel conflitto rappresenterà la fine della sua carriera politica. Con Marina Milone, dopo il giornale radio, naturalmente racconteremo la sua storia. Marina Milone intervista Maurizio Molinari. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì, cattive notizie, perché un'asta della Banca Centrale di 5 miliardi, 6 miliardi? No, dove era disponibilità 317 miliardi. Ma ne chiederanno Banca Centrale Europea. Ah no, pensavo che oggi c'era l'asta anche del... No, la Banca Centrale Europea, insomma, andrà corta, come suol dire. Cioè, no, le richieste sono notevolmente inferiori, quindi solo la metà rispetto alle aspettative, e quindi, sai, il capitalismo, come segna il nostro amico Gordon, è solo questa cosa qua. Io non creo niente, io possecco, e noi facciamo le regole, le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. E per finire, per ricordare il grande cantante Mango che ci ha lasciato ieri, una sua canzone, Bella d'estate. Che dura lo fuoco e la notte se li porta via. Bella d'estate.